Sardegna Italia fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Brecco, brecco. Attenzione alla frequenza, se ascoltate l'isola della Sardegna. Ah, poi arrivavo la scelta della... Siamo più ragazzi, sentarci. Giusto. CQ10, balla Zorigia. Non rispondi a pederasta. Marcolino! Marcolino! Non c'è nessuna frequenza? Proprio scelti. Ah, meno male uno c'è. Venne gente in accoglio. Oh yeah. Tanto il buon Natalino a casa CQ10, risponde. Non ti risponde però. Il telefono sta andando in tiste, così scarico. Aiuto, parla qua, parla. Con quello lì sì. No, aspetta, sto riscrivendo il nome all'accensione, che avevo messo un altro messaggio, avevo messo. E sembra anche col microfono normale. Cosa? Questo che stai usando, il microfono, è normale. Questo è 60. Ah, le invece 60. Aspetta, lo faccio sentire, è normale, lo vuoi sentire? Di su. Fammelo sentire, questo qui rimane un po' metallica. Aspetta un attimo, aspetta, metallica, cosa stavo facendo prima? Aspetta, guarda adesso, senza equalizzatore. Avanti, microfono. Ehi, avanti. Questo è normale. Ah, questo è 60, ho disabilitato l'equalizzatore della radio. Così è più grossa la voce, rimane, capito? L'altro è più squillante, però è più metallico. Perché vabbè, non mi sono mai messo a entrare nei parametri dell'equalizzatore, se non già ci riesco a regolare. Aspetta che lo sto togliendo dalla busta l'originale. Allora, ora, questo è l'originale, al mare, dai. Allontanato dalla bocca. MH31, adesso sono a forse 15 centimetri. Adesso è troppo, avvicinati la parola. Vedi, a chi non mi piace nei suoi microfoni, c'ha regolenti, allontanenti, avvicinenti. Adesso va bene, adesso con la stessa va bene, che bisogno c'è di mettere le mie 60. Per comodità, qua si inserisco l'equalizzatore, con questo qua, com'è? Peggio o meglio? Ah, l'ha chiarificato. Perché si sente un pippi quando chiudi? Questo qua si sente pippi. Cosa? Mi sembra un difetto del PTT. Guarda, adesso lo tolgo. Ecco, non c'è. No, c'è il bip, c'è il bip originale così. Questo qui c'è tutto originale, non è toccato. L'unica cosa che ha fatto è che le ha cambiato i finali perché erano partiti. Perché? Che radio è? Cosa? Che radio è? Il gas, il Saturnecco. Ah, sì. Sì. E lì ci stanno molto bene, secondo gli Shure, i Turner. Ma che è questo male qua? No. Gli Shure, il Turner l'ho avuto, ma stavo cominciando a rompermi le scatole perché ci piegavano le lamelle, non toccava, devi stare a regolarle ogni volta. Ho preso, l'ho venduto, basta, non le voglio usare. Vabbè, tu per comodità poi usi i palmari. Ci metti il 60, secondo me spinge. No, per il gas. Sì. Mi pare che li fermo lui, che li facciamo uno spezzone per vedere se va bene. Sì, si può fare. Solamente devi mettere l'alimentazione, la batteria. Cappa, ma già si può fare. C'era la batteria, no, quello lì, basta mettere le batterie, ma io sto dicendo se si può fare lo spezzone dall'MC60 al Galaxy. Ma ci vuole la radio, chi lo fa deve avere anche la radio, capito? Non è che può fare un attacco a 4 così. Ma l'attacco è quello di tutti gli apparecchi, scusa, ti posso dire, del 2009, del Cobra, è un attacco quasi normale, dai. è quasi normale, boh. Io ho il 48, sei uguale al 48. Luca, quello del 48 è la rovescia, dovresti mettere quelli di giù sopra e quelli di sopra giù per funzionare. Cosa va a stare? Ciao, hai dato un escapito, cazzo, c'avevo il volume a zero, per quello non riuscivo a sentirvi. E due ore con Wimpy, cazzo. Ho detto che l'attacco del Galaxy è alla rovescio da quello del 48, praticamente quelli di sopra li mette giù e quelli di giù li metti sopra e funziona. E io cosa gli ho detto? Però del 48 normale, non di quello modificato. Quello modificato può avere anche un altro attacco. Sto dicendo di quello normale, quello omologato. L'attacco degli omologati va alla rovescio per andare sul Galaxy. Ma lui c'ha l'omologale, non è omologato. Non lo so allora. Ma la voi crudezza la c'appi subito. Problemi mi saranno. Ma il problema, se non c'è la radio, c'è Natali. Cazzo, come fai col tester? Cosa zecchi col tester se non hai la radio? Devo fare la radio, sì, perché così sai qual è la portante e qual è la radio e qual è la ricezione, capito? Io rivolto con la radio, rigosi, non rivolto con i microfoni, no, così non rivolto. Soprattutto sto facendo una cosa agli altri. Chi vuole che faccia le cose mi deve lasciare la radio, come fanno tutti, capito? Non ne posso così io. Vabbè, io c'ero tutti uguali gli attacchi, tranne quello del Ruiz che è diverso. Però tutti gli altri apparati c'erano tutti a quattro e tutti precisi come attacchi. Io posso mettere il microfono di uno nell'altro senza problemi. Gli lascio un microfono così guarda col testo e l'attacco che vuole, molto ci vuole. Sì, già. Magari porto una radio e così lo fa. Quando lo fa così mi può, magari va anche bene. Natalia, hai letto quello che ti ho mandato? Ehi, ma a me non mi interessa. No, non spendo più soldi di nessuna parte, anzi sto vendendo, figurati. Cosa me ne frega? Come mi ritiro quel capo me lo vendo subito. Tanto non sto ascoltando, non sto facendo nulla, quindi no, non mi interessano più. Ehi, ma l'ha aggiustato già? No, lo deve aggiustare. Quando me lo consegna, che è pronto, lo metto in vendita immediatamente. Tanto ho rimesso a nuovo e me lo vendo. Tanto non me ne faccio niente per lasciarlo spento. È morto lo vedi? Non lo so. Sulle 500. È bella este. Il mio c'è l'accordatore automatico, c'ha tutti i filtri. Gli ho messo la manopola nuova, il pezzo di dentro della del manopolone, quello lì gliel'ho messo nuovo, l'ho fatto arrivare da fuori, quindi esce nuovo l'apparecchio. Vabbè, cava cava, avanti Luca. Così è. E quello, il primo che avevo, l'ho venduto 500 lo stesso, il secondo Rumattesi 500, però erano apparecchi chi li dovevi dare lì, capito? Non di due tumba già. Ma quello che c'avevi era modificato, c'aveva i finali diversi eccetera, quello lì se ne valeva 500 euro. Anche lì sono così Mattesi, sono tutti così quelli che ho avuto io, sono di lusso veramente. Questo qui aveva dei picchi allucinanti, casa sono di allucinanti. Speriamo che torni come prima. Ma funzionava, in AM funziona, si trattava solo di allinearlo in banda laterale, c'aveva quel difetto del manopolone, basta, non va via altro, in AM funzionava benissimo. Allora lo deve solo chiudere, gli accanni del manopolone lo deve solo chiudere. E lo deve allineare in banda laterale, no? Perché quello lì non era praticamente non era allineato, così è revisionato a nuovo, capito? Se io te lo do, te lo do come si deve, no così. Vabbè, certo. Lo so. Sono belli apparecchi, però il 4.4 c'ha sempre quel difetto dei puntini che dicono che si imbarra subito. Ma chi l'ha detto? A me quanti anni ce li ha avuti quegli apparecchi? Nessuno mi ha fatto mai un difetto, solo Ghicchio. Questo qui mi ha fatto quel difetto del manopolone, che si è rotto qualcosa dentro e andava a scatti quando giravi i canali, e blu. E allora gli ho fatto cambiare quel pezzo. Ho capito. Vabbè, allora adesso fra poco te lo darà. Sì, perché è longo, come se Vittorio e mi è longo che lo mese di maggio, ma pure il 3009 da Consami, il 3009 non ce l'ha lui, solo che è lungo perché fa piano piano le cose, capito? E avrà anche altro lavoro da fare, quindi magari lo mette in mezzo ogni tanto. E infatti dice che solo a smontarlo ci ha messo 9 ore. Solo a smontarlo, per cambiargli l'affare del manopolone. Perché quelle cose vogliono fatte con calma. Quello che sta cambiando lo slider al 680 ci ha messo una serata a smontarlo. L'ha aperto tutto quanto, ha tolto la mascherina di davanti, ha tolto lo slider, l'ha ordinato, adesso lo deve piazzare. Non è che Pippo ne boga a farlo. Magari il 140 è diverso. Il mio magari è più complicato, non lo so. Io non li ho mai toccati quegli apparecchi. Li hanno sempre toccati gli altri. Io se una cosa non la so, non mi permetto di fare niente. Dove posso arrivare lo faccio, ma se non ci arrivo non mi docco. Infatti i miei sono andati sempre perfettamente. Da Busi all'Asti si risobrugiati, o chi si è filmato lo VCO e l'ha fatto tutti i sibuntini, non lo so. Dice che c'è quel difetto lì, l'aveva fatto anche a Giulio, mi pare, quel coso del VCO. Non lo so. A Giulio io so che se gli era rotto il pulsante di accensione e basta. Ah, uscì. Vabbè. Luca, riprendo. Crisio. Luca. A pipere. Ma tu nei 50 mega mai andato ci sei? Ehi, sempre. Ci andavo nei 50. E niente, accerto. Ehi, già c'è qualcuno, quando c'è propagazione già li senti. Non so manco da quanto a quanto fa 50 mega, perché mai ci sono andato. E una fettina dei 50, c'avevo anche la Delta Loop in campagna per i 50, non me l'avevo fatta io. E la frequenza da quanto va nei 50 mega? Da 50 a 51 e qualcosa, poca roba nei 50, quindi di escursione, non è che ci siano tutti questi canali, no? Era una fettina, non so, mi sembra che adesso non possono più andarci sui 50, che gliel'hanno tolta. Quindi proprio non te ne vai nulla nei 50 mega. Infatti. Adesso hanno tutti questi apparecchi per andare in VU digitali, si stanno divertendo con quello, poi vanno con computer, vanno anche in HF e quindi poca niente a ciappi. La vera cosa è che stanno usando i computer, tutta roba digitale, capito? Vabbè, ma nei 40 metri io sento sempre gente, mi ascolto i contest, anche ieri c'erano dei contest sui 40 metri, mi stavo ascoltando, uno gli ha detto, dammi il nominativo, ma veramente sei tu che me lo devi dare a me, non io a te. bisogna vedere chi è che ha chiamato, a parte chi chiama deve dare il nominativo, e poi l'altro risponde col suo nominativo, ripete quello che di quello che chiama. Lo so, ma sono cose corte, dico Santiago Radio e si saluta le mie. Sì, l'orario mettono nel log, perché deve essere cosa svelta, dice 5-9, anche pure se arriva 9-20, gli dà il 9 per mettere al log 9 radio 5, capito? Luca, ci sì. L'altro giorno quello del Molise lo stesso, ho parlato un bel po' io con quello del Molise, che è difficilissimo raggiungerlo dalla Sardegna, perché c'era l'Italia ed era un radioamatore quello, e quindi gli ha dato il mio nominativo, lui mi ha dato il suo, le condizioni di lavoro, segnale, radio, tutte queste cose qui. Infatti quando ho finito, perfetto Bruce. Ma c'è il trasporto di Roma, non esiste più la casa. Certo che c'è. Allora arrivi la volta a casa. Sì, a chi l'ha giudito come ti mi chiamavo, io c'ho il nominativo internazionale, capito? Non abbiamo fatto nessun scambio di QSL né nulla. Ah, ecco. Io. E anche io ce l'ho. Mi chiamo Delta Romeo NDX. Vabbè, ma devi aggiungere 165, che è la Sardegna. E io dico sempre DR 165 DR. Che la gheva. Che la gheva, gheva. Avanti Luca Crizio, Lucrizio. Luca si è perso. Sì, evidentemente si è spostato, magari sta controllando qualcosa, capito? Ho provato a chiamare, tutta la sera, non verrà nessuno. Oh, via. Sono andato a fare qualche DX, però c'era la Spagna, ma mi ha detto che era occupata, praticamente di lasciarli in pace, capito? Figlia di Lelluccio. Se chiamano DX, non li chiamare neanche, perché vuol dire che vogliono parlare con gente lontana. Io conosco, so toccare la sua, però sono lontana anch'io. Ma vuol dire, se loro dicono si chiudi X, non richiamane manco. Ma cosa vuol dire che vogliono parlare con gente fuori dall'Europa, capito? No, no, loro stavano dicendo il loro nominativo, da dove modulavano, tutto quanto. Però forse io non sentivo altro, capito? E ho chiamato. O magari l'hai disturbato mentre parlava con un altro che tu non sentivi. Ma era su 27.555, praticamente da lì di solito si spostano, danno la frequenza e si spostano per modulare. Sì, lo so, però se tu li senti si chiudi X, che dicono si chiudi X, che vogliono fare il DX, non significa che devono parlare con gente vicino a loro, cioè noi, la Francia, capito? Vogliono parlare con gente fuori dall'Europa. Infatti dico attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna fa chiamate e si sintonizza l'ascolto. Ecco, prego. Oppure fai CQ 11 metri, però non devi dire di X, perché se dici di X significa che tu vuoi parlare con gente fuori dall'Europa, capito? Cavagara, vabbè. Oh, sento un rumore, cosa cacchio, è bum, cioè deve essere questo qua, c'è una lavatrice con cuscinetto sballato, ogni volta che attacca la lavatrice, ma è un casino lì, bum. Può darsi che mi riesce di Ruggestello come se mi ci dà la mia, penso di me, da là se ne è uscito. Mi ho dovuto comprare la lavatrice nuova, cazzo, mi sei facciato l'alzavetri dello sportello del guidatore, della macchina mia, e l'ho dovuto cambiare anche quello, cazzo, insomma, ho avuto un casino rispetto al telefono, cosa cazzo mi ha giù pagato, che mese, cazzo, pagamenti a nastro. Si è sfasciato nella mia, che è nuova, l'alzavetri, sono andato a casa di Franco, sono sceso giù e ho trovato il vetro abbassato, pensavo che mi avessero sotto il vetro della macchina, invece era sceso da solo, si è spaccato l'alzavetri, Franco, come ti posso, saluti, che te come fa, e allora abbiamo messo un nylon davanti, sto un astratto. E il giorno dopo sono andato al carrozziere e me l'ha cambiato. E io l'ho cambiato lo stesso, a me mi si è rotto il pendi, quello, il tendicordicella, no, che c'ha la molla e tutto. Ne è uscito quello e si è mangiato tutta la, il motorino, mi si è mangiato la, la cordicella, praticamente l'ho dovuto comprare nuovo. Tutto il telaietto e il coso li ho comprato completo, il motorino. Ce l'hai fatto tu? Sì, io e Franco l'abbiamo fatto, allora. Ma nella mia è un casino, c'è da togliere tutto questo nylon che c'è davanti, che se c'è la sacchetta si strappa, devi stare molto attento facendo quel lavoro. Io ho visto il carrozziere lavorando e non è facile. Piano piano. Abbiamo smontato tutto il pannello e abbiamo fatto il tutto. Grazie. Quando l'abbiamo tolto era tutto, tutta imbrugliurata la cosa, la, la cordicella, l'abbiamo dovuto comprare a nuovo. A piazzarlo ci abbiamo messo 5 minuti, cosa? Non ci abbiamo messo molto. Una volta che tutto piazzato, tutto è una cazzata a piazzarlo nello sportello. Perché l'ho preso completo io già, già a posto, no? Non abbiamo fatto altro che agganciare il vetro e via. Eh sì sì, no, il mio si era rotto l'ingranaggio, c'è l'ingranaggio in plastica, lo fanno apposta, così gli ha detto il carrozziere per cambiare. C'è l'ingranaggio in plastica, ammasseata e si fascia, ne c'è poco da fare, si sgranano e poi va a vuoto e scende. E il mio mi è uscito il tendi, quell'affare per tendere la cordicella, e c'era tutta ingrugliurata, e al spaghizzo che si è fasciato. Ma tutto in plastica, Gesù Cristo mio, già lo so, purtroppo è così. Si è trovato la molla e il pezzo che teneva quella molla dentro lo sportello, io. Infatti avevamo badato, mi paghi su chi si è fasciato. E si fasciavano prima quando aveva la manovella col filo d'acciaio, e si fasciavano i sì. E il mio è elettrico, il motorino. Però è a cordicella, non è a ingranaggi, invece quello di coso è a ingranaggi, quello di Franco, anche a Franco se l'è rotto, è un casino. Se ti dici dentro di Sumizu, a Ravini, di Rudellaietto, ti si barra. Poi quelli a ingranaggi si sgranano la sola, che sono in plastica gli ingranaggi, chiaro grido. 80 euro mi pare che l'ho pagato il mio. L'hai pagato Bobo. Il mio costa di più. Oh, sì, quanto altro lì l'ho pagato? 89, 90, adesso non mi ricordo esattamente, ma più la mano d'opera, la mano d'opera è venuto sui 100 euro in tutto. E sei andato bene, Manco Mari, 100 euro su, no. Il mio costa di più perché a cordicella, c'è anche l'affare per tendere la cordicella, è già pronto così, l'ha sbigliato completo io, in modo che 5 minuti avevamo poi ce l'avevamo piazzato. Ma dimmi tu, si è rotto proprio il pezzo che tendeva la cordicella, l'ha tutta ingrugliurata e si era magnata il motorino, a chi anda davanti a Darido, no? Eh beh, c'è tutta quanta, non faceva più il suo lavoro normale, è normale che si ingrugliureggia tutta. E vabbè, ma comunque, interessante che è risolto, E a me invece mi si è rotta la serranda, è il coso della serranda. La serrata fungibile, praticamente sono andato a alzarla, a massarla, è rimasta molle la cosa, la ciglia. E allora è la molla che si è scaricata. Ma bisogna saperlo fare, e poi non sono in condizione di arrampicarmi, di andare per l'equilibrio, figurati. Quello bisogna saperlo fare, bisogna che uno le sappia mettere quelle, perché bisogna caricare la molla, torna, capito? e punti l'iro blocco, devo accetti un inizio duro blocco e si è caricata la molla e poi chissà che modo. Comunque lo facevo da prima, tu la ammassavi, rimaneva molle, poi tiravi quella dall'altra parte e si rimetteva a posto. Poi alla fine ha mollato il tutto. Io si è spiazzata la molla e bisogna comprare la molla nuova, è come le serrande del coso, del, come quegli affari, quelle molle che hanno le serrande, quelle in ferro, era la stessa cosa. Beh, la molla che tira il coso, il diranti. Sì, più o meno è quello il coso. Quindi vabbè, già l'aggiusterò. Ho detto a Luca se viene, così vediamo un po' se lo mettiamo a posto. Se lo sa fare, te lo metti a posto, sì. No, non c'è problema. Se te non è tanto difficile a fare. Bisogna saperlo fare, bisogna sapere come funziona l'ingranaggio, se no l'avevo fatto io. Ma ho paura perché a volte perdo l'equilibrio. Con la volta lì che sono caduto la pasticcina probabilmente ho perso l'equilibrio. Sì, non ti conviene, no, perché se ti scappa la molla è un casino. Anche bisogna bloccare la grugaccia a vite, da poi girarla, e se ti scappa ti puoi far male, non è vatti. Lo so, perché girare al contrario, cazzo. Infatti, fallo pagare, già fa, chissù, che non è tanto difficile a fare, però bisogna stare attenti. Luca si è messo, aspetta. Sì, evidentemente si sarà spostato. E ho messo il telefono a caricare perché si stava tutto scaricando. Ce l'avevo quasi alla fine, 2%. E figurati. Mi ha rodato un bel telefono, infatti il dottore mi ha detto di evitare perché ho sempre questo bruciore agli occhi, mi lacrimano, mi fanno metà, ma lì cosa usa molto? Il telefonino, il computer, ho detto sì. No, no, eviti, perché quello lì mi sta staccando gli occhi. Niente. Io ce l'ho messo. Ma avevano mandato un filmato. Però non me lo quasi vedeva a fanguala e si interrompe. Ma cos'è di quelli che ti borrano? No. È la chat dell'Ari, però si interrompe il filmato e non ho visto e non ho sentito tutto, che stavano facendo collegamenti. Perché tu hai scritto sia all'Ari la stagione? Eia. Però adesso non rinnovo più e cazzo me ne fotto. Vabbè, come se WR. No, non mi scrivo più da nessuna parte, non mi hanno disgustato, la verità. Sto abbandonando tutto. Cazzo, quell'altro apparecchio che avevo l'ho restituito al proprietario, mi ha dato quello che l'ho pagato. Cazzo. Adesso mi vendo l'altro quando mi entra in mano, così me ne ribareggio, non ne voglio più sapere, ne ho le balle piene, non sto ascoltando nulla. Cioè i ricevitori ne ho due, tutti e due spenti sono. No, io ieri ho ascoltato, ho acceso ieri, stavo ascoltando i contest e niente, però poco, lo accendo anch'io poco. Il PNR è proprio la girampata, non abbassi, non la giubiazzista. E mica è lo stesso per il sottoscritto. No, sto ascoltando più nulla, non me la fotti più niente, di nulla di nessuno, tanto visto e considerato che la gente si comporta così, a spillarti solo i soldi e basta. E sai niente, l'interesse di Dina e boh, hai capito? E io adesso tronco i punti con tutto, non me ne sbatte nulla, me ne andrò a pescare, vuol dire, se mi sentirò bene, se no me ne uscirò, cosa vuoi ti dica, troverò altre cose. E appunto devo parlare di tutto questo, il baracchino mi avviso in tempo se non rimane pure a pegni con il baracchino, già c'ho 23 canali la verità, però è buttato lì, c'ho quell'omologato piccolino, quel Polman, quindi va pure. visto come ti ha omologato. Ma andiamo a carruccio, ma usiamo quello. Vabbè. Vabbè, se senti qualcuno dimmelo. E lo dicono. Se sento qualcuno che gli serve, già te lo dico. E mio immacolato, e c'ha scatole tutto, immacolato. E anche il mio era immacolato. Va ancora, l'ugello fa che è attaccato nei ricuvati, figura di, l'avevo preso nuovo io, solo che quello è un apparecchio che deve essere che hanno restituito dopo averci zappato dentro, lì il venditore magari non ne sa niente neanche, me l'ha spedito come nuovo, però è rimasto butti di subito. Io gli ho tolto solo il nylon trasparente, quelli che c'ha lateralmente, quelli neri li ho lasciati, quelli che c'ha negli spigoli, là, per non rovinarsi gli spigoli, e l'ho messo quel nastro, non so se il tuo ce l'ha, e quelli li ho lasciati, non li ho tolti. Manco io, quelli di sopra, nulla, il mio ce li ha. C'ho la scatola, c'ho tutto, se era l'avevo pigliato nuovo, l'avevo pagato una barca di soldi, e da voi cazzo va a fare i salvini qua. È stato toccato malamente pure quell'apparecchio, da gente incompetente. C'era la presa dove tu attacchi lo spinotto dell'altoparlante, quella lì era mollata, le saldature mollate c'erano, dimmi tu, erano in due bici, poi si mare l'ha fatto due monti, chi si abbassona, dimmi, la scheda dell'apparecchio è storta addirittura, non è dentro quegli incassi, perché se tu vedi c'ha degli incassi dove va dentro lì la scheda ed è storta. Io non l'ho mai aperto, non ho mai toccato le ALC, è proprio come me l'ha mandato, non l'ho mai toccato, sempre come me l'ha mandato, e non le ho aperto né ALC né nulla, l'ho lasciato com'è. E anche io, ma non toccarla che l'ha omologato. Lui mi manca un canale, va via. 40 canali solo, e boh, 4 watt. Io come me l'ha mandato l'ho lasciato, proprio perché era omologato. Io l'avevo fatto perché ero sempre sotto il mirino, no? Che disturbavo, vazio. E allora cazzo, temevo che me ne venivano qua a rompermi le balle, e allora ho preso quello omologato per forza. Sì, vabbè, già lo so. Oh, yeah. A me proprio perché mi piace il 2009, perché non prende splatter, niente, proprio è un baracchino, si sente forte come audio di ricezione, è bello come apparato. Io l'ho preso proprio per quello, perché mi piaceva come apparato. E quindi l'avevo preso per quel motivo, anche se l'ho pagato salato, però cazzo, quello era il suo prezzo, purtroppo. Però cazzo che me l'ha già rimandato così, guarda, io non me ne sono accorto mai, perché io non l'avevo mai aperto. Quando l'abbiamo aperto io e il mio dirimpettaio, no, allora ci siamo accorti di tutto l'ambaradan. C'è pure un diodo nell'alimentazione che non è il suo, chissà perché gliel'hanno messo, buh, è un valore diverso. E magari non aveva neanche la libuccioviscio, lo fanno andare, anche se non va bene, è come il fusibile, no, il fusibile non ne hai uno, metti l'altro, ma magari è troppo alto e ti fa passare la corrente, se non c'è quello giusto, ti fa di passare la corrente e ti faccia tutto. Ma è un diodo ben grande. Infatti se questo non è il suo, perché io li conosco come le mie tasche, questi qui, infatti il mio era un modello vecchio, era proprio la scheda, capito? Come finale c'è il 1969, non il 520 MOSFET, capito? Quindi era quello con i pezzi vecchi. Ecco, questo era buono come apparecchio ai suoi tempi, però me l'hanno dato tutto martoriato, cazzo, io giravi a becio, mi avevi mandato in Daridu, non avrei accettato apparecchio così, se addirittura della scheda non me ne sono manco accorto io. Quando l'ha visto il dirimpettaio lì, mi vedi, c'è anche la scheda storta, che non l'hanno messa bene, non lo vedi che è fuori dal suo incasso? Se non mi ha capizzato, me ne ero io. Dimmi tu, quello c'ha l'occhio clinico, li conosce subito, ne ha aggiustato uno o due di quelli. Non so cosa dirti, no, boh, è una cosa un po' strana che sia successa questa cosa, è molto strana, e probabilmente come dici tu qualcuno che l'ha ritornato indietro e lui l'ha dato come nuovo, ma è stato dato in piedi sempre chi lo riceve. Io se avessi avuto la garanzia l'avrei spedito indietro, gli avrei telefonato e spedito indietro, se ma non c'è garanzia è casino. E poi è arrivato dalla Spagna, che garanzia ti danno? Quelli, cazzo, se tu te lo spedisci indietro, manco non te lo ritornano più neanche, non solo d'altro. Io dentro una scatola c'è uno scontrino, la fattura e la garanzia, tutto qua. Ma dall'Italia l'hai preso tu? Sì, sì, in Italia. E niente, no, ho provato, va tutto bene, tranquillo. Ho provato a tutte le parti, lui va bene da tutte le parti. Mi ha anche telefonato il tipo per vedere se mi era arrivato, ho detto sì che ero contento, che nonno dice sono quegli apparati, li ho venuto diversi. Adesso non mi ricordo, se mi chiedi dove l'ho preso non mi ricordo manco dove, ma ce l'ho scritto nello scontrino, come si chiama. Perché l'ho trovato per miracolo, non ce n'erano più vini, c'erano gli ultimi. Infatti anche io l'ho preso dalla Spagna perché non ce n'erano, semplice. Adesso vendendichi su di più nuovo, che chissà com'è, boh. Io per la verità lo volevo come quello di Marco, quello che ha display blu, però non sono riuscito a trovarlo, mi ha detto che display era bianco, era normale, quindi blu non ce li aveva, ho preso quello lì. Sì, vabbè, bellissimo lo stesso, come il mio è il tubo, vuol dire, come quello che avevo io. Sono quegli apparecchi che non pigliano splatter, cazzo, tutti gli altri apparecchi che c'ho prendono gli splatter, quello non ne prende. Anche il gas ne prende di meno, però ne prende lo stesso, devi abbassare lo specchio per evitare gli splatter. Sì, lo so, non prenderò colpi, io non sto usando sempre quello. Dimmi di maniera dura parecchio di quanto Gribaldo, bastardi. Io mi sono fidato e non l'ho aperto, capito? Se l'avessi aperto, io non l'ho aperto per non perdere l'omologazione, ha detto, e l'ho lasciato com'era, come mi è arrivato l'ho lasciato. Cazzo, se gli mettevo sopra un coso dico ma più, ma proprio manografiale né niente, ma lo sai quanto ci tenevo a quell'apparecchio? Vabbè, se ci pensi già lo sai. E adesso vedo se riesci a aggiustarne il mio, cosa vuoi ti dica? Cosa mi piglio un altro 3009, cosa me ne posso? Già ce l'ho uno piccolino omologato, tanto mi serviva solo per essere omologato, mi è buco. Dove? Ce l'ho un altro omologato, il Polmar, quello che non da mancarruccio, che non si può modificare, non puoi fare un cazzo, mi dice. Ma che macchina avevo questo buone? No, anda manca a ruccio. Ce l'aveva uguale Pomponio. Di chi non riuscito a modificarlo di nessuna delle maniere, non potevi attaccare la, non potevi regolare la LC, nulla, vatti, niente, non potevi fare nulla di questi apparecchi. Che là c'ha microcircuito? Sì, è piccolino come apparecchio, cazzo, in macchina ci sarebbe stato bene se funzionava bene, però non imbatti mai il carruccio. Sono quegli apparecchi che stanno facendo apposta così per non essere modificati. E appunto. Il super sarà un signor apparecchio. Ma signora Viru, ma no chi su Bormar, Pucci. Tant'è vero che lo stavo usando, io ha sempre funzionato bene, fino a quando non si è guastato che mi è uscito quel difetto lì. Dopo quando l'abbiamo aperto abbiamo visto tutti gli intralazzi che c'erano. Le magagne. Ah, caso io sono sicuro che non si sarebbe permesso il venditore. Aspetta, se mi stanno soffrando. Zitto! No, perché poi perdono anche, si fanno una brutta pubblicità, perdono le stelle, eccetera, eccetera, le danno delle brutte recensioni. No, no, non conviene, non le conviene loro. Capito? Non penso che l'abbia fatto di proposito e razza lì. Sì, manco io, perché si sarebbe sputtanato da solo, capito? No, non penso che sarebbe permesso di mandare un apparecchio in quello stato. Quello lì gli è stato restituito, chissà per quale ragione, lui ha visto che era nuovo e me l'ha dato per nuovo, capito? Perché sennò come venditore sarebbe sputtanato da solo. Magari non lo sa neanche lui che è in quello stato quello lì, perché mica si mette a aprirlo. Lui ha visto che funzionava, andava e me l'ha venduto da me. Cavagava. E vabbè. Porto un papà, se ne fa un altro a lì. E già lo sai, se non andava uno va l'altro. Sì, vabbè, io purtroppo ti devo lasciare adesso che devo mangiare, già. Ci sentiamo alle prossime. Luca non è più entrato, deve essere sta inciaffugliando in qualche cosa. Boh. Ehi, sta facendo ascolto, boh. Oh, yeah. Perché lui sta sempre lavorando, sempre facendo. È un inventore pazzo. E allora, lui è sempre col saldatore in mano, questo Luca. Vabbè, dai, ci sentiamo magari più tardi, che adesso devo preparare il tutto qua. Ciao, già, grazie per le quattro chiacchiere e alle prossime. Poi va bene, dai, buona carica quando lo fai, dai, grazie per il questione. Ciao, ciao, ci sentiamo, saluta Concetta. Cambia già, Concetta ricambia, ciao. Ma briciola! Brigido! A Carino! Ciao Brigido, devo mangiare, al limite ci sentiamo più tardi se ci sei. Sì, più tardi sono in piscina io, a letto sono. Brigio per te, non sai quel che ci perdi. Sono sciolto, a Carino. Sì, mi vai a riposarti allora, dai, già lo so. Quel lavoro è un po' duro. Ci sentiamo alle prossime, dai, Manuel. Ciao. Ciao.